Oggi trascuro di commentarvi Luca 22:35, anche se è un brano un po' duro, un po' difficilino. D'altra parte bisognerebbe che il nostro studio della parola di Dio non fosse limitato ai 3-4 minuti feriali, ma fosse esteso in una piccola scuola della Bibbia. Io vi invito, noi facciamo qui in parrocchia una lettura commentata della Bibbia. Certo, una volta ogni 15 giorni impiegheremo 30 anni, va bene. Io vi proibisco di morire per i prossimi 30 anni, a voi e a me, in modo che potremo andare avanti a leggerla per un po' di tempo, no? Oggi vi voglio invece dire due parole sulla prima lettura, che è la lettera di Paolo a Tito, capitolo primo, versetto primo 9, perché Tito è un po' come Timoteo, i suoi aiutanti, vescovi sono anche chiamati, presbiteri. Oggi noi potremmo pressa poco dire parroco, perché dice ti ho mandato a Creta perché tu metta ordine in quello che rimane da fare e stabilisca in ogni città, secondo le istruzioni che ti ho dato, che tu organizzi la parrocchia o comunque la diocesi, che non c'era ancora, ecco. Allora, mi sembra bello ripercorrere quello che Paolo suggerisce a Tito, affinché noi possiamo confrontarlo con i nostri parroci per ringraziare Dio se sono fedeli e per pregare per loro se non lo sono, invece di criticarli, che non serve a niente, anzi serve a fare un peccato noi, anche se diciamo eventualmente cose giuste, però non li aiutiamo, anzi li denigriamo. Invece pregare per loro perché li mantenga Dio o li converta se ancora non sono. Allora, Paolo dice a Tito così: ognuno di loro sia irreprensibile, il più possibile insomma, marito di una sola donna e abbia figli credenti. Allora non c'era ancora l'obbligo del celibato sacerdotale. D'altra parte, oggi presso le chiese ortodosse è possibile che i parroci, i sacerdoti, prima di ordinarsi, si sposino. E quindi io ho conosciuto in Ucraina un bravo sacerdote greco-cattolico, quindi cattolico ma di rito greco, che aveva 7 figli, una santa persona con la sua fatica. Marito di una sola donna e abbia figli credenti, non accusabili di vita dissoluta e indisciplinati. Il vescovo, infatti, come amministratore di Dio, il parroco, infatti, come deve essere irreprensibile, non arrogante, non collerico, quanto è importante il carattere, non dedito al vino. A me è capitato di sentire della gente che diceva di un certo parroco, Don Grappino lo chiamavano. Che tristezza, io non ho conosciuto questo sacerdote, peraltro mi hanno detto che era un bravissimo prete, però andava al bar al mattino e sotto gli occhi di tutti, insomma, il suo grappino se lo faceva. È peccato? No, credo di no. Non è certamente un punto a favore, però presso la gente, come dobbiamo così pregare affinché le nostre guide spirituali siano integerrime, non violento, non avido di guadagni disonesti, veramente non dovrebbe essere non avido di guadagni anche onesti, perché deve stare staccato dai soldi, anche se per guidare una parrocchia bisogna che ci siano i soldi. Ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, padrone di sé, fedele alla parola, una persona degna di fede, perché sia in grado di esortare con la sua sana dottrina e di zittire gli oppositori. Ecco allora che il Salmo fa da eco e dice nel ritornello: i puri di cuore abiteranno la casa del Signore. Ecco, ho voluto leggervi questo proprio perché che salva la Chiesa non è il prete, non è il parroco, è Gesù. Però che avvicina o allontana la Chiesa tante volte è il sacerdote, è il parroco. Allora questa messa vi invito a offrirla per i sacerdoti, soprattutto coloro che hanno incarichi di guidare delle comunità, perché per intercessione di Paolo, per intercessione di Tito e di Timoteo possano essere secondo il cuore di Dio, o come dice Paolo all'inizio di se stesso: Paolo, servo di Dio, apostolo di Gesù Cristo, per portare alla fede e per far conoscere la verità a quelli che Dio ha scelto.